ad alta voce, in collaborazione con l'Istituto Centrale per i Beni Sonori ed Audiovisivi. Massimo Popolizio legge Martin Eden di Jack London, traduzione di Cecilia Scerbanenko. L'ansia di Ruth si mostrò giustificata. Martin e il professor Caldwell si erano ritrovati insieme in un punto ben visibile della sala, dove Martin, pur non agitando più le mani per aria, secondo lo sguardo critico di Ruth, lasciava che i suoi occhi si illuminassero e lampeggiassero un po' troppo spesso. E poi parlava troppo rapidamente e con troppo calore, si lasciava prendere dalla passione e consentiva al suo sangue bollente di arrossargli le guance. Mancava di decoro, di controllo, ben diversamente dal giovane professore di letteratura inglese con il quale parlava. Ma Martin non si preoccupava delle apparenze. Aveva immediatamente percepito le capacità della mente dell'altro, ne aveva apprezzato la vastità delle conoscenze. Per di più, il professor Caldwell non incarnava affatto l'immagine che Martin si era fatto del tipico professore di letteratura. E proprio per questo desiderava farlo parlare del suo lavoro e, sebbene all'inizio il giovane professore cercasse di sottrarsi, alla fine si lasciò convincere. Martin, infatti, non era mai riuscito a capire perché non si dovesse parlare di affari. «È assurda e immotivata», aveva detto a Ruth alcune settimane prima, «questa regola secondo la quale non bisogna parlare di lavoro. Per quale ragione sotto il sole gli uomini e le donne dovrebbero incontrarsi se non per scambiare ciò che di meglio c'è in loro? E ciò che c'è di meglio in loro è quello a cui sono interessati. Il modo in cui hanno scelto di guadagnarsi da vivere, quello in cui sono specializzati e a cui dedicano i loro giorni e le loro notti, persino i loro sogni. Immagini il signor Butler che in omaggio all'etichetta ci enunciasse le sue opinioni su Paul Verlaine o la drammaturgia tedesca o i romanzi di D'Annunzio. Ci annoierebbe a morte. Se, per esempio, devo ascoltare il signor Butler, preferisco ascoltarlo parlare di legge. È il meglio che vi sia lui. La vita è così breve che io voglio il meglio da ogni uomo e da ogni donna che incontro. Ma, obiettò Ruth, vi sono gli argomenti di interesse generale. Qui ti sbagli, si era affrettato a continuare lui. Tutte le persone in una società, ogni cerchia in una società, o meglio, quasi tutte le persone e le cerchie, scignottano quelli che reputano i migliori. Ora, chi sono i migliori in assoluto? Quelli che non hanno niente da fare, i ricchi sfaccendati. Di regola quei tipi non conoscono ciò che è noto a chi fa qualcosa nel mondo e quindi troverebbero terribilmente noioso partecipare a una conversazione su quegli argomenti. Ecco perché gli sfaccendati hanno decretato che non bisogna parlare di lavoro. Allo stesso modo hanno deciso su quali argomenti si possa parlare, perché non sono lavoro, Si tratta dell'ultima opera, degli ultimi romanzi, delle carte, biliardo, cocktail, automobili, cavalli, pesca della trota, pesca del tonno, caccia, barca, vela e così via. Nota bene che queste sono le attività conosciute da chi non ha niente da fare. In verità sono i discorsi di lavoro degli sfaccendati. Ma la parte più divertente è che molte persone sveglie, oltre a tutti quelli che si credono svegli, si lasciano influenzare da loro. E per quanto mi riguarda, io voglio il meglio di ciò che un uomo ha dentro di sé. Chiamalo un volgare parlar d'affari o come più ti piace. E Ruth non aveva capito. Quell'attacco alle convenzioni le era apparso solo come un ostinarsi nelle proprie opinioni. Ma la sincerità di Martin contaminò il professor Caldwell, sfidandolo ad aprire la sua mente. Ruth, fermatasi un istante vicino ai due, sentì Martin dire: «Ma davvero non pronuncerete eresie simili all'Università della California?» Il professor Caldwell si strinse nelle spalle. Sa, l'onesto cittadino che paga le tasse è il politico. Sacramento stanzia i nostri fondi e perciò noi ci prostriamo davanti a Sacramento e davanti al Consiglio dell'Ateneo e alla stampa del partito e alla stampa di entrambi i partiti. Sì, tutto questo mi è chiaro, ma lei, Martin continuò, deve sentirsi un pesce fuor d'acqua. Penso proprio che ci siano ben pochi pesci simili a me nell'acquario dell'università. No, anzi, a volte mi sento quasi del tutto fuor dell'acqua. Sento che dovrei appartenere a una città come Parigi, alle vie dei bassifondi, a una caverna da eremita o a una compagnia di tristi e selvaggi bohemien intento a bere chiaretto. Oppure a cenare in qualche ristorante economico del quartiere latino, proclamando ad alta voce ideali radicali su tutto il creato. Davvero, spesso ho quasi la certezza di essere nato per diventare un radicale. Ah, ma poi ci sono così tanti argomenti sui quali sono incerto. Mi intimidisco quando mi ritrovo faccia a faccia con la mia fragilità umana, perché mi impedisce di afferrare tutti i fattori di un problema. Dei problemi umani vitali, eh? Lei mi capisce. Mentre continuavano a conversare, Martin si rese conto di avere sulle labbra le parole della canzone degli Alisei. Sono il più forte a mezzogiorno, ma sotto la luna gonfio la trama da vino. Mormorando quelle parole. Si rese allora conto che l'altro gli ricordava gli Alisei, in particolare quello di Nord-Est, costante, freddo e forte. Il professor Caldwell era solido, si poteva contare su di lui, e ciò nonostante c'era qualcosa di sfuggente. Martin aveva la sensazione che non dicesse mai fino in fondo ciò che pensava, così come gli Alisei, secondo Martin, non soffiavano mai con tutta la loro forza, ma conservavano sempre una riserva di energia. L'immaginazione di Martin era attiva come sempre. Il suo cervello era un magazzino di ricordi, fantasie, dove era facile entrare, dove le merci sembravano essere sempre pronte, ordinate e ben disposte perché lui le potesse ispezionare. Qualsiasi cosa accadesse nell'attimo presente, la mente di Martin gli presentava immediatamente antitesi o similitudini, di solito sotto forma di visioni. Era un processo puramente automatico. Quel potere di visione lo accompagnava stabilmente nella vita presente. Così, di momento in momento, senza esserne sconcertato, anzi, riconoscendo e classificando nuove visioni di ricordi sorgevano davanti a lui, oppure si dispiegavano sotto le sue palpebre, o si proiettavano sullo schermo della sua coscienza. Così, la faccia di Ruth, in una crisi di gelosia, aveva richiamato davanti ai suoi occhi una dimenticata tempesta di vento in una notte di luna piena. E così, il professor Caldwell gli aveva ricordato l'Aliseo di Nord-Est che riuniva i cavalloni in un gregge attraverso l'oceano violaceo. Ogni visione nasceva dalle azioni e dalle sensazioni del passato, dalle cose e dagli eventi, dai libri di ieri e della settimana prima. Una schiera innumerevole di apparizioni che, durante il sonno e la veglia, si accalcavano per l'eternità nella mente di Martin. Così accadde che Martin, mentre ascoltava il fluido parlare del professor Caldwell, il conversare di un uomo intelligente e colto, continuasse a ripercorrere il suo passato. Vide se stesso, quando era un vero teppista con indosso un cappello Stetson a falda rigida e una giacca a doppio petto ben squadrata con una certa aria da padrone, convinto di essere tanto duro quanto era permesso dalla polizia. Non se lo nascose, né cercò di trovarsi delle attenuanti. A un certo punto della sua vita era stato un comune teppista, il capo di una banda che aveva preoccupato la polizia e terrorizzato gli onesti proprietari di case della classe operaia. Ma gli ideali di Martin ora erano cambiati. Si guardò intorno, guardò gli uomini e le donne di buona famiglia, ben educati e ben vestiti. Inspirò nei suoi polmoni quell'atmosfera di cultura e raffinatezza, mentre il fantasma della sua prima giovinezza, in cappello rigido e doppio petto, dandosi arie da padrone e da duro, attraversava a grandi passi quello stesso salone. Poi quella figura, il teppista di strada, si fuse con il se stesso attuale, si sedette e parlò con un vero professore universitario. Dopotutto, Martin non aveva mai trovato un luogo al quale appartenere veramente. Dovunque si fosse trovato, si era inserito. Era riuscito a primeggiare sempre, in ogni luogo, grazie alle sue capacità di mantenere le proprie posizioni nel lavoro e nel gioco, nella sua prontezza, abilità nel lottare per i propri diritti, nell'ottenere rispetto. Ma non aveva mai messo radici. Si era adattato abbastanza per soddisfare i suoi compagni, ma non se stesso. Era sempre stato disturbato da una sensazione di irrequietezza. Aveva sempre sentito il richiamo di qualcosa che stava al di là e, cercandola, aveva vagato attraverso la vita fino a quando aveva trovato libri, arte e amore. E Martin era arrivato qui, nel centro di tutto questo, l'unico tra tutti i suoi compagni d'avventura che avesse saputo conquistare i requisiti necessari per entrare nella casa dei Morse. Quei pensieri e quelle visioni non impedivano a Martin di seguire con attenzione il professor Caldwell. Mentre lo seguiva, comprendendo e obiettando, notò l'insuperabile campo della conoscenza posseduta dall'altro. Di momento in momento, quella conversazione gli mostrava brecce e aperte distese, interi soggetti a lui sconosciuti. Ciò nonostante, grazie al suo studio di Spencer, Martin capiva di essere ormai in possesso dei contorni del campo della conoscenza. Era solo questione di tempo, e poi avrebbe potuto riempirli. «Tutti ai propri posti», pensò Martin. «Attenti alle secche, eh?» Avrebbe voluto sedersi ai piedi del professore, incantato e adorante, ma mentre ascoltava, iniziò a scorgere una debolezza nel ragionamento dell'altro, una debolezza così vagabonda e delusiva che Martin non sarebbe stato in grado di coglierla se non fosse stata sempre presente. E quando Martin l'afferrò, si sentì immediatamente sullo stesso piano del professore. Ruth si avvicinò di nuovo ai due, proprio mentre Martin stava iniziando a parlare. «Le dirò dove sbaglia, o piuttosto che cosa indebolisce la sua capacità critica», disse Martin. «Le manca la biologia. Non ha posto nel suo schema del mondo. Ah, intendo la vera biologia interpretativa, dalle basi in su, dal laboratorio, dalle provette e dal materiale inorganico, ma vitale, fino alle più ampie generalizzazioni estetiche e sociologiche». Ruth era paralizzata. Aveva seguito due corsi del professor Caldwell e lo considerava il depositario vivente di ogni conoscenza. «Temo di non riuscire a seguirla», disse incerto il professore. «Cercherò di spiegarmi», disse Martin. «Studiando la storia egiziana, ricordo di aver letto che non è possibile capire l'arte di quel popolo senza aver prima studiato il territorio in cui è nata». «Esatto», annuì il professore. «E quindi mi sembra», continuò Martin, «che quella conoscenza del territorio, anzi ogni conoscenza per la verità, non possa essere raggiunta senza aver prima studiato la materia e l'organizzazione della vita. Come possiamo comprendere le leggi e le istituzioni, le religioni, le tradizioni, senza comprendere non solo la natura delle creature che producono quella realtà, ma anche la natura della materia in cui quelle creature sono fatte? La letteratura è forse meno umana dell'architettura e della scultura egiziana? Vi è forse una sola cosa nell'universo conosciuto che non sia soggetta alla legge dell'evoluzione? Oh, sì, sì, conosco quell'elaborata teoria sull'evoluzione delle varie arti, ma mi sembra troppo meccanica. L'elemento umano ne è lasciato fuori. L'evoluzione dell'utensile, dell'arpa, della musica, della canzone e della danza sono state tutte perfettamente elaborate. Ma che dire dell'evoluzione dell'essere umano stesso, dello sviluppo di quelle parti elementari e intrinseche appartenenti al suo organismo, necessarie perché costruisse il primo utensile o farfugliasse il primo canto? Sono proprio questi gli aspetti che lei non prende in considerazione e che io chiamo biologia. È la biologia nella sua accezione più ampia. So di esprimermi in modo incoerente, ma spero di averle sgrezzato l'idea. Mi è venuto in mente mentre l'ascoltavo, ma non ero carico e pronto per il colpo. Lei stesso ha parlato della fragilità umana che impedisce di cogliere tutti i fattori di un problema. E lei trascura il fattore biologico, proprio la materia con la quale sono state tessute tutte le arti, la trama e l'ordito di tutte le azioni e le conquiste umane. Con grande meraviglia di lui, Martin non fu immediatamente rimesso al proprio posto. Al contrario, il professore gli rispose in un modo che a lei apparve come un atto di indulgenza per la giovane età dell'interlocutore. Il professor Caldwell restò seduto in silenzio per un intero minuto, giocherellando con la catena dell'orologio. «Lo sa», disse alla fine, «questa critica mi è già stata fatta in passato da un vero grand'uomo, uno scienziato e un evoluzionista, Joseph LeConte, ma è morto. E io speravo di passare inosservato, e poi arriva lei e mi smaschera. Seriamente, io penso, e questa è una confessione, che vi sia qualcosa di vero nella sua critica. Molto, in realtà. Sono troppo tradizionalista, non abbastanza aggiornato nello studio dell'interpretazione della scienza. posso addurre come giustificazione la mia educazione e la mia pigrizia caratteriale che mi hanno sempre frenato. Mi chiedo se crederà che non sono mai stato in un laboratorio di fisica o di chimica, eppure è vero. Le Conte aveva ragione. E anche lei ce l'ha, signor Eden, almeno in parte. Quanto? Non lo so. Ruth trascinò via Martin con un pretesto. Quando lo ebbe condotto da parte, gli sussurrò. Non avresti dovuto monopolizzare il professor Caldwell in quel modo. Anche altre persone potrebbero voler parlare con lui. Errore mio, Martin ammise, pentito. Ma quando sono riuscito a scuoterlo, ha iniziato a parlare di cose così interessanti che non mi sono proprio reso conto di monopolizzarlo. Sai, è l'uomo più brillante, più colto con il quale abbia mai parlato, e ti dirò anche qualcos'altro. Una volta credevo che tutti coloro che hanno frequentato l'università o che occupano posti importanti nella società fossero brillanti e intelligenti come lui. Oh, lui è un'eccezione, gli rispose Ruth. Direi di sì. E adesso con chi vuoi che parli? Ah, ecco, portami da quel tipo, il cassiere. Martin parlò per 15 minuti con il giovanotto e Ruth non avrebbe potuto desiderare che il suo innamorato si comportasse meglio. Gli occhi non lampeggiarono nemmeno una volta e le guance non gli si arrossarono. Se lei fu sorpresa dalla calma e dall'equilibrio con il quale Martin conversava, lui perse tutta la considerazione che aveva per l'intera tribù dei cassieri di banca e per tutto il resto della serata fu oppresso dall'idea che i cassieri di banca fossero sinonimo di banalità. Più tardi scoprì che l'ufficiale tornato dalle Filippine era un ragazzo di natura buona e semplice, sano sotto ogni aspetto, soddisfatto di occupare quel posto in cui era capitato per nascita e fortuna. Quando Martin seppe che aveva seguito 2 anni di corso all'università, si chiese stupito dove quel giovane ufficiale potesse averli mai riposti. Nonostante ciò, gli piacque di più dell'insulso cassiere di banca. «Non ho nulla da obiettare alle banalità», disse a Ruth più tardi, «ma ciò che mi infastidisce è il pomposo compiacimento, l'aria di superiorità con cui vengono pronunciate e il tempo sprecato per farlo. Avrei potuto raccontare a quell'uomo l'intera storia della riforma nel tempo che lui ha impiegato a dirmi che ormai il partito laburista si è fuso con i democratici. Sai, pronuncia ogni parola come un giocatore di poker professionista solleva dal tavolo le sue carte. Un giorno ti farò vedere cosa voglio dire. Mi spiace che non ti sia simpatico, fu la risposta. È uno dei protetti del signor Butler. Il signor Butler dice che è fidato e onesto. Lo chiama la pietra, Pietro, e dice che su di lui si può edificare senza paura una banca. Oh, non ho dubbi, per quel poco che ho visto di lui e per quel poco meno ancora che l'ho ascoltato dire. Non ho più un'opinione così alta delle banche come prima. Non ti dà fastidio che io parli così apertamente, vero, cara? No, no, no, è molto interessante. Sai, e Martin continuò con passione, si tratta solo delle prime impressioni di un barbaro davanti alla civiltà. Simili impressioni devono essere un affascinante romanzo per una persona civilizzata. Cosa pensi delle mie cugine? Indagò Ruth. Ah, mi sono piaciute più delle altre donne. Non ci si annoia con loro e per di più non sono piene di pretese. Allora ti sono piaciute anche le altre invitate? Martin scosse la testa. Quella donna che si occupa di assistenza sociale non è altro che un pappagallo da seggio. La pittrice di ritratti? Ah, quella era una noia bella e buona, sarebbe una buona moglie per il cassiere. E la musicista? Non mi interessa quanto le sue dita siano agili, quanto perfetta sia la sua tecnica, quanto meravigliosa la sua interpretazione. La verità è che non sa niente di musica. «Ma suona benissimo!» protestò Ruth. «Sì, senza dubbio, è una perfetta ginnasta della tecnica musicale, di ciò che è esteriore nella musica, ma non ha alcuna idea di cosa sia lo spirito intrinseco in quell'arte. Le ho chiesto che cosa significasse la musica per lei. Sai, sono sempre stato curioso di saperlo». «E lei non lo sapeva. Sapeva solo che l'adorava, che era la più grande delle arti e che significava più della vita per lei. «Hai costretto quelle persone a parlare di lavoro», Ruth lo accusò. «Sì, lo ammetto. Ecco, vedi, io pensavo che qui, in alto, dove si possono godere tutti i vantaggi della cultura...» Martin si interruppe per un momento e osservò la propria giovane ombra in cappello rigido e doppio petto entrare dalla porta e pavoneggiarsi attraverso la stanza. Come stavo dicendo, ecco, pensavo che qui in alto ogni donna e ogni uomo emanassero luce. Ma adesso, dal poco che ho visto, mi sembra che almeno la maggior parte di loro siano un mucchio di sempliciotti, mentre il 95% dei restanti è una vera noia. Poi c'è il professor Caldwell. Lui è diverso, lui è un uomo, e lo è ogni centimetro, ogni atomo della sua materia grigia. La faccia di Ruth si illuminò. Parlamene, lo incitò, ma non di quello che è grande e brillante. Io conosco le sue qualità. Parlami di tutto ciò che ti sembra negativo. Sono davvero curiosa di saperlo. Forse mi ritroverò in un guaio, Martin rifletté scherzosamente per un momento. E se me ne parlassi tu per prima? Ah, ma forse trovi in lui unicamente virtù. Ho seguito due dei suoi corsi. Lo conosco da 2 anni ormai. Ecco perché sono ansiosa di conoscere la tua prima impressione. Cattiva impressione, vuoi dire? Va bene, ti dirò. Lui ha tutte le virtù che tu pensi abbia, credo. Almeno è il miglior esemplare di intellettuale che io abbia mai incontrato. Ma quell'uomo ha un segreto. Oh, no, no, no, no! Martin si affrettò a gridare. Nulla di gretto o di volgare. Ciò che voglio dire è che mi sembra un uomo che ha raggiunto il fondo delle cose e ha avuto così paura di quello che ha visto da convincersi di non averlo mai visto. Forse questo non è il modo più chiaro di esprimere quello che penso. Lasciami riprovare in un altro modo, eh? Oh, è un uomo che ha trovato il sentiero che conduce al tempio nascosto, ma che non l'ha percorso, che forse ha intravisto il tempio, ma che ha lottato con se stesso per convincersi che si trattava solo di un'illusione prodotta dal fogliame. Ancora in un altro modo, eh? È un uomo che avrebbe potuto agire con efficacia, ma che non ha mai riconosciuto alcun valore all'agire e che continuamente, in fondo al cuore, si rammarica di non averlo fatto. È un uomo che in segreto si è fatto beffe delle ricompense riservate a coloro che agiscono, eppure, ancora più in segreto, anela alle ricompense e alla gioia dell'agire. Io non lo vedo così, disse Ruth. Anzi, non vedo neppure che cosa tu voglia dire. È solo una vaga sensazione, e Martin prese tempo. È solo una sensazione e probabilmente sbagliata. Certamente, tu lo saprai meglio di me. Da quella serata passata a casa di Ruth, Martin portò con sé una strana confusione e dei sentimenti contrastanti. Era deluso dal suo obiettivo, dalle persone che aveva incontrato là in alto, eppure era per loro che aveva affrontato la scalata. D'altra parte, si sentiva incoraggiato dal suo successo. Salire così in alto si era rivelato più facile di quanto si aspettasse. Capì che le sue forze erano superiori a quella scalata, come lui stesso era superiore agli esseri tra i quali si era arrampicato. Non se lo nascose per falsa modestia, con l'eccezione, naturalmente, del professor Caldwell. Martin conosceva i libri e la vita ben più di loro e non riusciva a evitare di domandarsi in quale ripostiglio avessero nascosto l'istruzione ricevuta. Non si rendeva conto che era lui a possedere un raro vigore intellettuale e non sapeva che le persone alle quali era stato concesso di sondare le profondità e i confini del pensiero non si trovavano nei salotti dei Moors del mondo. Martin non immaginava neppure che quelle persone erano come aquile solitarie